Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 23 aprile 2015. Smart Grid. LED e veicoli elettrici. L'energia intelligente accende l'Expo. Una rete intelligente, uno scenario illuminato da LED a basso consumo, 32 milioni di contatori che forniscono informazioni al gestore. Lungo i viali si muovono decine di veicoli elettrici. Tutto mentre nel centro di controllo il sistema nervoso della rete elettrica trasforma i dati in uno show per i visitatori. All'Expo lo spettacolo dell'energia del futuro è già partito, a poche settimane dall'apertura ufficiale. A realizzare il sistema, che si propone come nuovo paradigma nel settore energetico, è stata Enel, con il supporto di Siemens. Tra qualche mese si tireranno le somme, ma già ora, a Rho, c'è una città dove l'energia pulita è finalmente conveniente, illuminazione è efficiente e a basso impatto la mobilità è sostenibile. Fin qui la notizia del 23 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Qualche giorno fa Expo ha presentato Enel come suo Smart Energy Partner. Il presidente di Enel, Paolo Andrea Colombo, al microfono di Jacopo Matano. Per quel momento si potrà intravedere delle forme di produzione da fonti rinnovabili efficienti, tecnologicamente evolute, che proprio grazie all'evoluzione della tecnologia potranno essere competitive sul lato dei costi senza necessariamente dover richiedere sostegni e incentivi che alla fine, in una logica di economicità di sistema, indubbiamente comportano un onere. Per quanto riguarda il lato della distribuzione, noi stiamo investendo nello sviluppo della rete intelligente, delle smart grid, che nella nostra visione rappresenteranno quello che la rete di internet ha rappresentato per la circolazione delle informazioni, quindi rendendo lo sviluppo dell'energia più fluido e più efficiente e più sostenibile. La rete intelligente, a differenza della rete tradizionale che funziona in una logica unidirezionale, ha una logica di funzionamento multidirezionale, per cui consentirà una produzione diffusa sul territorio, consentirà un consumo consapevole ed efficiente e quindi renderà più efficiente il sistema nella sua globalità, sia dal lato della produzione che dal lato del consumo. E per quanto riguarda anche le modalità di consumo, l'Expo può essere un'occasione importante per verificare l'efficienza e l'efficacia della mobilità elettrica, che è una forma di consumo che ha un notevole impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e che a sua volta può costituire un importante driver di sviluppo e di rilancio dell'economia. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.